grazie di essere venuti a questa serata organizzata dalla biblioteca. Per chi non mi conoscesse, io sono Patrick Curru, lavoro come bibliotecario alla Biblioteca Claudio Augusta. Questa sera sostituisco la direttrice per i saluti di rito e per le informazioni per quanto riguarda le prossime iniziative della biblioteca. Vi ricordo solo che la collega Alessia, che vedete girare qui, ha recuperato dei libri che la biblioteca che potete prendere in prestito. Potete parlare poi con la collega alla fine della serata o anche adesso in attesa dei due relatori. Io vi ricordo, questa è una settimana abbastanza intensa, abbastanza impegnativa, perché ogni sera abbiamo pensato qualcosa per il nostro pubblico. Domani c'è un appuntamento in occasione del Caffè Philosophique con un ricercatore di Ca' Foscari, una serata molto interessante sulla storia del lavoro, soprattutto legato all'Europa orientale, quindi sempre qui alle 18, sempre qui nella sala B1. Mercoledì abbiamo un altro appuntamento, sempre qui alla sala B1. Questa è un'iniziativa in collaborazione con l'ufficio famiglia del comune. Lo abbiamo pensato di presentare 4 proiezioni video. Abbiamo iniziato la settimana scorsa e domani avremo un'altra presentazione di un film che si intitola Revolutionary Road, e sono tutti film che hanno come tema, diciamo, centrale la dipendenza affettiva, o comunque i rapporti tra uomo e donna all'interno della famiglia, anche i figli, eccetera. Quindi questo mercoledì alle ore 18, sempre qui al centro Trevi. E poi, per finire in bellezza, giovedì abbiamo quella che è un po' la festa della biblioteca, perché giovedì dalle 18 alle 21, per chi non lo sapesse, il 2019 coincide con i 20 anni della biblioteca provinciale. Il 30 luglio del 1999 è stata istituita la biblioteca provinciale. In questo anno, appunto, vogliamo festeggiare questi 20 anni, insomma. E giovedì cogliamo l'occasione di farlo, insomma, insieme a voi, insieme a tutti quelli che vorranno partecipare, a una gara di poesie, quindi a un poetry slam. Quindi invitiamo tutti a partecipare a questa gara di poesia, che sarà un'occasione, come detto, per festeggiare anche i 20 anni, diciamo, della biblioteca. Ci sarà un buffet, ci saranno appunto delle persone che si sfideranno all'ultima poesia, quindi sarà una serata un po' particolare, e quindi chi volesse partecipare può farlo, sia come pubblico che come invece, diciamo, concorrente di questa sfida all'ultima poesia. Come detto, i libri potete prenderli in prestito. Abbiamo anche il libro che verrà presentato questa sera. Lì in fondo vedo l'editore, qui Edit, se non sbaglio, che mette in vendita il libro di questa sera. Nel frattempo sono arrivati i due relatori, che ringrazio, naturalmente l'autore del libro di questa sera, Francesco Alberti, che ringrazio di essere stato qui, di essere venuto, di aver accettato il nostro invito, Marco Pugliese, che è un amico della biblioteca, abbiamo organizzato tante conferenze di storia in questi ultimi anni. Un libro sulla guerra fredda, che, diciamo, un tema che non sembra dimenticato, ma in realtà è di fortissima attualità. Quindi ci spiegherà poi l'autore in che senso e perché è anche ancora importante, e anche su quali livelli ancora si combatte una guerra fredda. Quindi io mi fermo qui, vi auguro una buona serata e ringrazio ancora tutti di essere venuti qui questa sera. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Se mi sentite, anche se non uso il microfono, o preferite il microfono? No, se non mi sentite ditemelo. Mi sembra che non so. Sì. No, allora, io con molto entusiasmo vivi questo libro sulla scrivania della direttrice di questa biblioteca, che oggi non c'è, ma della Valeria, e che mi chiese poi di poter moderare questo incontro. Sono stato poi contento di aver accettato, anzi che mi hai accettato tu, più che altro perché non mi conoscevi, perché nel professor Alberti ho visto un pochino, con i dovuti paragoni perché il suo curriculum parla da solo, ho visto una persona molto poliedrica che è riuscita a studiare certi aspetti della guerra fredda, come titolo al suo libro, ma soprattutto dei dintorni, secondo me, della guerra fredda, sviscerando moltissimo che durante tutto il periodo di guerra fredda classica e nell'attuale periodo di guerra fredda, perché la guerra fredda non è finita nel 1989, ha dato a noi la possibilità di conoscere degli aspetti veramente che non vengono trattati dai media neanche tradizionali e che sono stati riassunti in questo libro, che può essere considerato, a mio avviso, senza esagerare, una sorta di piccola enciclopedia sul tema. La cosa interessante di questo libro e l'ho letto anch'io così, è che si può anche non partire dal primo capitolo, quindi è un libro che può essere letto in maniera non cronologica secondo la scrittura dell'autore, quindi si potrebbe partire anche dalla guerra, dal capitolo di guerra fredda attuale, e poi andare a ritroso, ad esempio, e capire perché si è arrivati a determinati tipi di scontri e incontri della civiltà orientale e occidentale, cioè, chiamiamola così. E io adesso lascio la parola all'autore, che avrà molto da dirci, e introduco una domanda. È stato, secondo me, uno dei pochi autori, l'ho letto in qualche libro di autori americani che però sulla guerra fredda hanno avuto una storia diversa rispetto a noi italiani, perché avevano degli analisti che poi si prestavano a scrivere delle cose particolari che noi non conoscevamo. Ho letto dei libri sull'U2. Quello che mi ha ricordato questi libri, questo approccio scientifico abbastanza inusuale in Italia, è stato proprio mettere su più piani la guerra fredda. Quindi noi pensiamo sempre alla guerra fredda come guerra tra due ideologie, quindi da una parte il capitalismo, dall'altra il comunismo, e soprattutto mettiamo dei punti su delle questioni, oppure dei fatti che sono accaduti durante lo scorso secolo: la crisi dei missili di Cuba, la guerra del Vietnam, Reagan e tutto quello che ne uscì negli anni 80, eccetera eccetera. Invece il professor Alberti è riuscito a dare alla guerra fredda una sorta di più storie parallele, quindi una storia dell'economia, una storia delle relazioni internazionali, della tecnologia, perché viene spesso dimenticato tutto quel discorso sulla bomba atomica. Infatti è la prima, diciamo, domanda di queste macro aree che ci siamo, noi abbiamo chiacchierato parecchio nei nostri incontri, e la prima, appunto, domanda è: come mai e perché cosa ti ha spinto proprio a partire, perché uno dei capitoli principali è quello sulla bomba atomica. Certo. Come mai sei partito proprio da lì e non magari da fatti un pochino più conosciuti, come poteva appunto essere la crisi dei missili piuttosto che l'U2, eccetera eccetera eccetera? Buonasera a tutti, mi fa grande piacere essere qui e poter condividere con voi percorrere 70 anni di guerra fredda. Come diceva il professor Pugliese, la guerra fredda non è finita con il crollo del muro di Berlino. Come un fiume carsico è proseguita, nascosta, nascosta soprattutto all'opinione pubblica mondiale. E molto di quello che è stato scritto in questo libro, oltre che essere innovativo e anche sconosciuto. Sconosciuto soprattutto all'Europa occidentale e all'Italia in particolare. Il libro è un libro internazionale, pubblicato anche nell'est Europa, in Ucraina e in Russia, dunque in ucraino e in russo tradotto. E ha fatto, io ho, una delle mie priorità nello scrivere il libro è stata quella di avere un equilibrio e di mantenere un equilibrio nella struttura, non essere né di parte, diciamo, orientale o occidentale, ma quello di trasferire le conoscenze in maniera obiettiva e soprattutto cercare di sdoganare le informazioni. È stata questa soprattutto la difficoltà di poter dare le conoscenze ad un vasto pubblico, soprattutto ai giovani, che nelle scuole italiane, ma non solo, dell'intera Europa occidentale, di storia contemporanea ne sanno ben poca, ma non per colpa loro, perché non gli viene insegnata. Cioè finiscono la quinta superiore facendo sì e no la seconda guerra mondiale e tutta la storia contemporanea successiva non sanno nemmeno se è esistita o meno, non sanno in che mondo vivono, non sanno cos'è l'ONU, cos'è la NATO, cos'è l'Unione Europea. Questa è la tragica notizia, una delle tragiche notizie che vi do questa sera, voi ne sarete magari anche a conoscenza, però effettivamente è questo, ma nessuna sorpresa. Questo è uno di quegli aspetti che diceva il professor Marco Pugliese dei dintorni. Cioè, sono più importanti i dintorni della guerra fredda in sé, rappresentata dal titolo e dal libro stesso. I dintorni effettivamente sono tutti quegli ambiti che prendendo spunto dal passato, perché non è che il presente e il futuro si vive senza aver vissuto un passato, vengono ripresi, elaborati e portati avanti. Ecco dunque che a noi ci sembra di essere in un mondo di pace, almeno qui nella città di Bolzano. Io sono appena arrivato adesso da Trento, non ci sono bombe atomiche, non ci sono missili nucleari, viviamo in pace, molto apparente. Quello che io ho detto per quanto riguarda l'istruzione dei nostri giovani a scuola sulla storia contemporanea è uno di quegli strumenti di guerra attuale. Ma vi siete mai chiesti come mai i nostri figli, o due figli, uno di 6 anni e uno di 3 anni, devono ancora iniziare la scuola? Si divideranno tra la scuola ucraina di Kiev e quella italiana di Trento. E come mai i nostri bambini, ok, fanno le scuole primarie, elementari, e gli viene insegnato giustamente la preistoria, gli assiro-babilonesi, gli egiziani, i romani. Ok, finisce la scuola elementare, primaria, vanno a scuola media, riprendono da capo. Preistoria, assiro-babilonesi, egiziani, romani. Poi vanno un po' avanti, ovviamente, lo faranno un po' più veloce. I superiori iniziano ancora così, magari tralasciando la preistoria, ma gli egiziani, i romani si devono fare. Finché, come ho premesso prima, si arriva alla fine del quinto anno che se no viene fatta la seconda guerra mondiale. Da come la vedo io, le superiori, dalle superiori, dalla seconda alla terza, la storia contemporanea dovrebbe essere insegnata e partire dall'oggi a ritroso. Così si formano le future generazioni, ma ci deve essere la volontà politica e sociale di formarle. Altrimenti il popolo rimane nell'ignoranza e l'ignoranza fa sì che l'individuo possa essere controllato dai grandi poteri che hanno la gestione del mondo attuale contemporaneo, che possono essere poteri economici, poteri politici e poteri sociali. Mi è stata fatta una domanda riguardo alla bomba atomica. La bomba atomica è stata ed è attualmente uno di questi dintorni contorni, cioè uno strumento a parte di altissimo livello militare strategico, ma soprattutto uno strumento di egemonia. E questo che cosa significa? Quando io vi dico che durante la Seconda Guerra Mondiale la bomba atomica era un'arma di seconda scelta per gli Stati Uniti d'America, penso che rimarrete scioccati quando io vi dico questo. Ma come? Durante la Seconda Guerra Mondiale, e stiamo parlando di 70 anni fa, la bomba atomica era un'arma di seconda scelta? Quando tuttora andiamo in panico, quando un dittatore di un paese da terzo mondo come la Corea del Nord entra nei nostri telegiornali e ci propone determinate politiche di strategia a livello globale, dove praticamente un eventuale ordigno atomico è allocato in un razzo intercontinentale può creare il panico a livello internazionale e mondiale. E questo, cioè io, gli viene a dire questa sera che l'arma atomica era un'arma di seconda scelta durante la Seconda Guerra Mondiale. Effettivamente era così ed è stato così. Il signore è un po' perplesso. Truman è passato alla storia come colui, il presidente americano, che ha dato il là, che ha dato l'ordine di lanciare la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Dunque, per la storia nostra, è stato un presidente cosiddetto negativo, tra virgolette, ok? Mentre Roosevelt è colui che, grazie ai famosi punti sulla quasi legislativi, tra virgolette, su un disciplinare la vita politica internazionale per un futuro di pace globale, dunque è passato ai posteri come una figura positiva, Truman praticamente quasi si può dire paragonato a Stalin, diciamo al di là del muro, cioè praticamente colui che ha lanciato su ordine suo, diciamo, le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, ammazzando tantissimi uomini, donne, bambini, anziani. Truman ha scelto il male minore. L'arma atomica, come ripeto, allora ai tempi era un'arma di seconda scelta. Piccolo ritroso. Il progetto Manhattan che gli americani avevano programmato già all'inizio degli anni 40, su cosa era appoggiato? Era appoggiato su grandi studiosi, su grandi scienziati, soprattutto non americani. La maggior parte veniva dalla vecchia Europa, venivano soprattutto dalla Gran Bretagna, che era all'inizio degli anni 40 la nazione che aveva sviluppato a livello teorico e a livello pratico, per gli investimenti che allora ancora riusciva a fare la Gran Bretagna, che man mano che trascorreva la Seconda Guerra Mondiale erano sempre meno, e la Gran Bretagna era comunque il paese più avanzato nello studio dell'arma nucleare. O comunque, parliamo ancora prima di arma nucleare, dello studio, diciamo, del nucleare, dunque del nucleo atomico, della fissione e i primi prodromi anche della fusione nucleare. Ma questi studiosi che avevano portato avanti il progetto britannico all'inizio degli anni 40, la maggior parte di questi non erano nemmeno britannici, erano tedeschi, cosiddetti di sinistra, che per evitare tutte le ripercussioni che potevano avere all'interno della loro patria durante il regime nazionalsocialista, se ne erano scappati e andati, trasferiti appunto nell'isola britannica, soprattutto a Londra. Sono entrati a far parte del Ministero della Difesa e degli Armamenti, e stavano portando avanti questi progetti che il governo britannico aveva, come detto, iniziato a finanziare. E già nel 42-43 la Gran Bretagna non era più stata capace di portare avanti questi progetti, si era praticamente arenata per carenze finanziarie. Gli Stati Uniti avevano in mano altre risorse, ovviamente, erano a conoscenza dei grandi progressi dell'alleato britannico e hanno voluto, diciamo, assorbire il progetto. Dico assorbire perché praticamente se lo sono assunto loro. La Gran Bretagna non è stato un partner politico-scientifico in questo caso, ma solamente un diciamo cosiddetto partner di minoranza. È da qui che è nato il cosiddetto progetto Manhattan, con la maggior parte degli scienziati britannici, tanti di loro di origine tedesca, tra cui lo scienziato Fuchs. Non so se qualcuno l'ha mai sentito nominare. È sconosciuto, ma una persona molto importante in quello che si sarebbe rivelato una persona decisiva in quello che avrebbe fatto successivamente. Logicamente il progetto Manhattan era stato portato avanti con la condizione di Oppenheimer. E c'erano logicamente dei centri studi diversificati, come quello dello stesso anche Einstein, ma soprattutto dei ragazzi di Via Panisperna, il nostro grande orgoglio nazionale, appunto condotti da Enrico Fermi ancora quando era in Italia e poi presso l'Università di Chicago. Cosa è successo? Nel progetto Manhattan Fuchs, come altri un paio di scienziati di origine tedesca, di nazionalità britannica, ma comunque diciamo di sinistra, si erano fatti un esame di coscienza interiore, avevano capito che con questi studi, con queste progettazioni, gli Stati Uniti sarebbero arrivati ad avere un'arma talmente letale che avrebbe condotto il mondo ad una egemonia americana esclusiva. Non ci sarebbe stata nessuna nazione che avrebbe potuto competere. Ecco dunque che soprattutto questo scienziato Fuchs ha iniziato a collaborare, è stato il contatto interno del progetto Manhattan con il KGB sovietico. Ai tempi venivano passati i progetti agli staff di studio degli scienziati di Mosca e di San Pietroburgo per far sì che l'Unione Sovietica, che era l'unica nazione che poteva contrastare gli Stati Uniti in una egemonia futura, perché già nel 1942 inoltrato, diciamo già operazione Barbarossa avanzata, già Stati Uniti e Unione Sovietica avevano già compreso che dovevano già dividersi il mondo, perché la Germania era spacciata. Dunque il dividersi il mondo consisteva appunto negli strumenti da avere in possesso per poterselo dividere, e questo era uno di questi: l'arma atomica, l'arma nucleare. Infatti l'Unione Sovietica ci è arrivata alla bomba atomica 4 anni e mezzo dopo gli Stati Uniti, cioè un periodo temporale limitatissimo se si pensa che è partita con gli studi 15 anni dopo. Dunque questo recupero è stato fatto appunto perché logicamente c'erano, chiamiamole tappe, all'interno del progetto Manhattan, scienziati di valore incredibile come questo Fuchs, che mandava i progetti appunto a Mosca. E nel libro ho parlato appunto di questa evoluzione anche da parte sovietica e il raggiungimento all'inizio degli anni 50 di una parità strategica tra le due superpotenze. Parliamo strategica, che praticamente è intesa come le cosiddette armi che fanno pendere effettivamente la bilancia a favore di una o altra superpotenza. Perché parlo che gli Stati Uniti detenevano un'arma di seconda scelta? Perché gli Stati Uniti, già durante la Seconda Guerra Mondiale, erano andati oltre. Oltre la bomba atomica. Dunque, oltre un'arma che già faceva terrore solo a nominarla, che i suoi effetti sono stati dimostrati appunto con lo sgancio su quelle due città giapponesi alla fine per concludere la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'arma primaria degli Stati Uniti d'America erano le armi elettromagnetiche. Nessuno ne ha mai parlato, nessuno ne ha mai detto. Quella era la vera arma strategica degli Stati Uniti d'America già alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E qui qualcuno, se posso un attimo interrompere, se si ricorda tutta la questione di Majorana e di Marconi. Se qualcuno ha in mente cosa accadde, ovviamente queste sono informazioni spesso riservate, spesso che vengono fuori a pezzi, spesso che vengono ritrattate, però se vi ricordate Marconi, la cui morte anche è abbastanza strana, e alcune dichiarazioni che fece lui furono strane, furono fatti degli esperimenti anche in Italia, quello che venne ribattezzato da certa stampa raggio della morte, cioè una sorta di arma che potesse riuscire ad inibire completamente tutte le apparecchiature elettroniche senza distruggere le infrastrutture, perché attenzione, quando il professore parla di armi ad alto potenziale distruttivo come l'arma atomica, c'è un piccolo difettuccio di queste armi. Tu puoi anche vincere la guerra, ma poi governi sui sassi. Quindi è strategicamente fondamentale, e provarono col cobalto, provarono con tantissimo, col fosforo, insomma ci furono un sacco di armamenti che vennero creati proprio per evitare di distruggere le infrastrutture, ma addirittura le piante, cioè bisognava solamente distruggere l'essere umano. È per quello che le armi batteriologiche ebbero una grande efficacia, perché è un'arma che ti permette di distruggere l'esercito nemico o distruggere quella che noi chiamiamo intelligenza di un paese, quindi a radio solo completamente le classi che danno potere a quello Stato, e riesce a fare una conquista senza distruggere il paese. Invece se butti quattro bombe atomiche, sì, in effetti potresti vincere la guerra, ma rimani poi a non poterci abitare in quelle città. Quindi il discorso del raggio della morte e tutto il discorso della questione elettromagnetica piuttosto è basilare. Ovviamente in Italia questo filone spesso non è considerato e delle volte in maniera del tutto sciocca viene accantonato. In realtà gli studi di Marconi erano avanzatissimi e lui stesso a più di un suo assistente confidò di essere molto religioso e di averne parlato prima col Papa e poi con Mussolini, perché in quel periodo lì Mussolini aveva tutto l'interesse che queste persone non se ne andassero via dall'Italia o non andassero a morire, soprattutto anche Enrico Fermi, cioè tutti quei discorsi e quelle questioni che noi facciamo postume sono abbastanza ridicole delle volte, perché in realtà i dittatori di quel periodo, la Germania, la Norvegia, e fece anche produsse l'acqua pesante per arrivare alla bomba atomica. Però ripeto, il professore ha detto una cosa fondamentale: da un punto di vista strategico militare è seconda scelta, perché di fatto è un'arma primitiva dal punto di vista tattico, perché ti distrugge completamente chi vuoi conquistare. Se tu vuoi conquistare un paese o comunque avere dalla parte tua dei paesi, se inizi a bombardarli con l'arma atomica avrai gran pochi alleati nel post guerra. Quindi sono armi tattiche di forte deterrenza che crearono un equilibrio di terrore. Io tempo fa sentii un'intervista a Canfora, a Luciano, che è un filosofo, eccetera, e disse: forse un giorno rimpiangeremo l'epoca degli imperi, perché gli imperi grossi di quella levatura con quegli armamenti, di fatto la guerra non se la sarebbero mai fatta. Negli Stati Uniti ci sono stati anni, no? Da Nixon in poi la strategia del terrore in realtà era una strategia dove stavano tutti fermi, spostavano qualche missile, ma stavano ben attenti. In questo preciso momento storico invece quello che ha detto il professore ha una attualità molto, molto inquietante, perché adesso non abbiamo un padrone ufficiale del mondo, no? Se sbaglio, ne abbiamo abbiamo alcuni aspiranti e abbiamo una superpotenza che sono gli Stati Uniti, che tecnologicamente per il momento sono ancora, però i russi, come ci dirai dopo, non sono così indietro come pensiamo noi. E soprattutto noi, e qua mi riaggancio a un'altra seconda domanda, su, io lo dico in italiano così capiamo tutti perché l'acronimo è CNAS, perché qui entriamo nel mondo puro della disinformazione che abbiamo anche spesso sui nostri giornali che consideriamo autorevoli. Cioè noi siamo convinti che negli Stati Uniti ci siano i buoni e i cattivi, che i buoni siano i democratici, i cattivi spesso siano i repubblicani. Poi però ci dimentichiamo che esistono dei think tank in gergo che comandano di più del partito stesso, fatti di persone sia repubblicane sia democratiche. Il CNAS è uno di questi, fondato nel 2007, lui è forse uno dei pochi in Italia che ha spiegato come funziona la politica americana realmente, senza andare a fare il discorso Obama è buono, Trump è cattivo, Bush è cattivo, quell'altro è buono. Sono delle sciocchezze. Io quando leggevo sulla Clinton certi editoriali mi domandavo, ma questo l'ha mai letto? Cioè, sa come funziona? In America in realtà il CNAS ha piazzato tutti i generali che hanno fatto le guerre. Il CNAS era dei democratici, però questa associazione è stata creata dai democratici, da una donna e da un uomo, due democratici amicissimi di Obama, amicissimi della Clinton, il generale Petraeus che è stato in Iraq e che aveva come strategia, sapete qual è la strategia di Petraeus, democraticissimo, disintegrare un paese con la guerra civile, aspettare che si distruggano per i fattacci loro e poi impiantarci le aziende loro. Questa è la strategia, l'ondata che tu l'hai descritta, ma credo che io l'ho letto da lui e da un altro studioso americano che dice come in Europa noi siamo totalmente ciechi riguardo questo genere di strategia di politica. Cioè noi pensiamo che se vince un presidente che ai nostri occhi è una brava persona, gli danno il Nobel per la poi va tutto bene. In realtà la guerra in Siria è stato il CNAS che l'ha voluta, la guerra in Libia è stato il CNAS, cioè, e sono si chiamano falchi liberali e vanno d'accordo con i falchi repubblicani, perché negli Stati Uniti c'è l'interesse nazionale che è il numero uno nelle loro prerogative. Ed è per quello che questo libro, secondo me, è di un livello, perché lo trovate scritto in italiano. Io questa roba l'ho vista scritta spesso in inglese, in russo non lo conosco, però l'ho vista tradotta in internet in inglese, non l'ho vista scritta quasi da nessun nostro storico, se non qualcuno di proprio nicchissima, perché proprio forse non si vuole neanche dire, non si vuole proprio raccontare. In realtà partiamo da questa disinformazione che è fatta da think tank come il CNAS, cose che noi in Italia non abbiamo presente come funzionano, cioè sono delle associazioni intergovernative che a seconda della persona che va, no, a governare ci piazza quegli uomini che all'interno di questa associazione avevano delle cariche importanti, cioè il segretario di Stato fa parte dello staff. Fa proprio parte dello staff. È come se adesso vinci le elezioni e ti porti tutto il tuo staff, però stiamo parlando di una cosa di un livello. In Italia avevano iniziato negli anni 2000, fino agli anni 2000, con le fondazioni, ricordo, a fare una roba di quel, però poi ovviamente all'italiana si sono abbastanza annacquati. Qua proprio c'è una strategia e poi troverò anche i punti esatti, perché qui si parla di espansionismo statunitense, si parla di aprire basi NATO dove non dovrebbero essere aperte, perché chiaramente se le vai ad aprire troppo vicino alla Russia prima o poi qualche pasticcio succede, come è successo in Ucraina. Ecco, il professore che insegna all'Università di Kiev quindi vede da vicino quello che succede lì e ha uno sguardo che non è occidentale, orientale, russo, indiano, svizzero, eccetera, ha uno sguardo da studioso. Cioè questo libro qui l'ha scritto da studioso, ha preso i fatti, anche quelli un po' messi nel cassetto, e ha cercato di spiegarli divulgandoli in un modo che potesse leggerlo chiunque, perché qui dentro non dovete avere lauree per leggere questo libro, basta leggerlo, potete anche leggerlo a pezzi, e questa è la forza, secondo me. Il capitolo del CNAS, se vuoi tu puoi approfondire, che può essere collegato al discorso della bomba atomica, perché noi abbiamo delle misconcezioni erratissime riguardo a cultura e storia, eccetera, sia dell'Occidente che dell'Oriente, perché siamo convinti, no, che vada tutto bene da una parte. Adesso abbiamo questa sorta, ci portiamo in grembo questa colpa storica dell'Occidente, in realtà poi dimentichiamo i massacri che ci siamo fatti, eccetera. Quindi abbiamo questo modo nostro di ragionare un po' particolare, che però dall'altra parte non ce l'hanno, nel senso che anche da parte russa spesso e volentieri hanno fatto dei ragionamenti simili al nostro, però ci hanno sempre detto, c'era un libro, Russofobia, che spiegava molto, molto esattamente questo: guardate che non siamo proprio noi i vostri nemici, cioè i russi più di una volta hanno teso la mano anche durante la guerra fredda, Khrushchev, lo stesso Gorbaciov, eccetera eccetera, hanno provato a dire all'Occidente: guardate che il problema non sono solo i nostri missili, c'è qualcos'altro nel mondo che non va bene, noi però abbiamo sempre cercato di finanziare per conquistare. E quindi adesso lui approfondirà sicuramente, può approfondire meglio anche la questione, penso, moderna e forse attuale di quello che è successo in Ucraina, perché molti pensano che Putin sia un pazzo, che lì ci siano i fascisti, qualcuno l'ha tirato fuori, però in realtà lui adesso potrà approfondire anche per sei anche sposato tu con una persona del luogo e quindi può ben spiegare meglio rispetto a certe fantasie che abbiamo letto. Certo. In Occidente. Sì, e chiudendo un attimino il cerchio. Sì, la vita è una bomba. Sì, sì, certo. Chiudendo un attimino il cerchio, sì, il professor Pugliese ha parlato di Marconi. Io faccio un altro nome, Tesla. Chi è che lo conosce? Pochissimi. Vedo il signore qua davanti, il signore, ma sconosciutissimo. Noi conosciamo Leonardo da Vinci, stiamo parlando di una persona, Tesla, sconosciuto al mondo, che è quello che praticamente ha inventato tutto quello che noi stiamo usando nel nostro mondo attuale. Microfoni, tutto quello che è di elettronica, microfoni, televisioni, computer, qualsiasi cosa, qualsiasi aggeggio elettromagnetico che abbiamo a casa funziona con gli studi di Tesla. La storia di Tesla la troverete nel libro e lì l'ho voluto inserire insieme a Maxwell, un altro scienziato britannico molto importante, che aveva sviluppato questi studi elettromagnetici, appunto, intercalandosi appunto e immergendosi nella storia contemporanea delle nazioni, perché alla fine la storia delle nazioni è la storia delle persone. E effettivamente sì, mia moglie è ucraina, lei abita a Kiev, però è originaria del Donbass. Voi sapete che il Donbass è zona di guerra ancora in questo momento, nonostante che i nostri telegiornali, i nostri giornali non ne diano notizia, non è più aggiornato, logicamente ha fatto notizia quando è scoppiata la guerra ucraina, quando ci sono stati i disordini di Piazza Maidan, quando c'è stata la presa della Crimea, ok, ma poi silenzio. Logicamente sono strategie queste. Sono strategie occidentali che fanno parte di disegni strategici anche della Russia, ma dalla parte americana appunto di una guerra ibrida e di una guerra cosiddetta compound. Di cosa stiamo parlando qui? Cose che in Italia non se ne sente parlare nella maniera più assoluta. Cos'è la guerra ibrida? È la guerra che stiamo vivendo adesso. Guerra compound è la guerra totale ipotizzata ed elaborata da von Clausewitz nel XVIII secolo. La guerra totale, ma guerra totale non con due eserciti sul campo con le fanterie a cavallo, no, qui stiamo parlando di strategie di dominio basate sulla società. Qualsiasi aspetto della società è sotto attacco. Dunque, l'informazione, l'economia, perché la crisi quindicennale ormai che stiamo vivendo, che cosa credete? Oh sì, sono quelle fasi della società che un po' c'è l'espansione, un po' c'è, diciamo, la fase di recessione. No, carissimo. Queste qui sono strategie di guerra economiche, finanziarie, di capitale, L'Ucraina, mi è stata fatta la domanda adesso sull'Ucraina, effettivamente è uno snodo molto importante tra Occidente e Oriente. Come diceva il professor Pugliese prima, gli Stati Uniti hanno bagnato i piedi d'argilla della Russia. Come? Logicamente riempiendo di basi NATO la Polonia, per esempio, ma non solo, anche stati, diciamo, molto più vicini al confine russo. E non solo dal lato ufficiale, ma anche dal lato, diciamo, ufficioso, tra virgolette, creando destabilizzazione nelle cosiddette regioni montuose caucasiche, per esempio. Dunque, la reazione di Putin è una reazione che, col senno di poi, può essere comprensibile. È una risposta a un qualcosa, non è un attacco diretto. Poi possiamo discuterne, e sono io il primo a dirlo, che è contrario a ogni normativa del diritto internazionale l'attacco che la Russia ha fatto all'Ucraina nei confronti della Crimea. Però fatto sta che effettivamente è una situazione di guerra ibrida che si sta creando e si sta delineando in territorio ucraino da parte russa, ma altrettanto in territorio ucraino la sta facendo gli Stati Uniti. Come? Cercando prima di tutto di collaborare e potenziare l'economia del governo ucraino e la partnership politico-militare, da un lato. Dall'altro, creando le cosiddette giovani menti. Le giovani menti per far cosa? Quelle che prenderanno le redini future del paese. Nulla di nuovo sotto il sole della guerra fredda. Erano strategie anche della vecchia guerra fredda, della guerra fredda passata. L'Unione Sovietica l'aveva applicata ai tempi, dalla fine degli anni 40 e negli anni 50. La famosa Orchestra Rossa, penso che la conoscerete. L'Orchestra Rossa era ai tempi un qualcosa di nell'ambito, diciamo, delle attività di spionaggio delle superpotenze, un qualcosa di eccezionale, mai visto. Perché non era più uno spionaggio classico, ok? Le spie che venivano trasferite dall'Unione Sovietica, parliamo di Unione Sovietica per esempio, in Gran Bretagna, in Francia, paesi partner, in Italia, paesi partner importanti alleati in Germania occidentale con gli Stati Uniti d'America. No, venivano contattate persone che frequentavano l'Università di Oxford e Cambridge e cresciute. Queste persone studiavano, si laureavano e man mano con gli anni raggiungevano i vertici e la scala sociale e di potere della Gran Bretagna, raggiungendo posizioni di potere, ma logicamente erano al comando di Mosca. Stessa cosa sta succedendo adesso, come dicevo anche in un incontro che ho fatto con il professor Pugliese. Se voi vi prendete la briga di andare a vedere su Google, su Wikipedia, chi è il capo di Stato, o lo è stato negli ultimi anni il capo di Stato, capo del governo, quello è stato negli ultimi anni capo del governo, di Estonia, Lettonia e Lituania, i primi paesi che sono entrati nell'Unione Europea e a far parte della NATO dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica, tutte persone che hanno studiato nelle università americane. Capite che cosa voglio dire? Lo stesso adesso, succede la stessa cosa, è successo anche a me. Due volte io con altre mie colleghe professoresse universitarie sono stato invitato, pagato viaggi di prima classe da Kiev a Leopoli, una città al confine con l'Ucraina, al confine con la Polonia, hotel a 5 stelle, ristoranti di lusso internazionale per 4 giorni. Chi pagava? Eravamo invitati a dei convegni. Chi pagava tutto questo? E per quale motivo? I relatori erano generali della NATO e i massimi strateghi del Pentagono. Capite che cosa voglio dire? Questa è guerra ibrida, questa è la guerra fredda attuale. pensate che la strategia, siccome parliamo di terrorismo internazionale, vedete cosa sta succedendo e anche in questi giorni, la strategia non era tanto dissimile per quanto riguardava anche l'arruolamento di personaggi che poi diventarono noti terroristi internazionali come Bin Laden, ad esempio, che fu fatto crescere in un bellissimo ambiente del tutto occidentale e fu fatto studiare nelle migliori scuole occidentali, e così tutti praticamente i dittatori del Medio Oriente, perché poi sul Medio Oriente, sulla Siria, lì ci sono stati delle grosse frizioni tra Stati Uniti e Russia, cioè non è un caso che ci sia finita l'Armata Rossa in Siria, non è un caso che il Daesh sia partito da lì e non è un caso che Assad non sia stato deposto perché è intervenuta la Russia, ma anche perché gli americani gli hanno fatto il cordone sanitario, come si dice in gergo strategico, come hai usato anche tu, sì. È una terminologia americana, cioè, sì. il cordone sanitario. No, vuol dire che praticamente tu sei circondato, di fatto sei obbligato a, quindi Assad è obbligato a fare delle cose, ma è rimasto comunque al suo posto perché non c'era fino a quel momento un'alternativa, anche se comanda meno di prima a livello chilometrico, perché poi c'è tutto il discorso del gas che nessuno ha fatto in Europa. Avete mai sentito parlare di gas siriano? Non è mai stato. Io mi sono confrontato delle volte con dei giornalisti che scrivono solo di quello, quindi è scandaloso, perché io me ne occupo per un 15% della mia vita, loro se ne occupano per un 95%, e non era una conoscenza che ci fosse il gas in Siria. Secondo loro noi si va in Siria così per guardare le stelle, eccetera, eccetera. In tutto questo vi ricordo che l'Unione Europea cosa ha fatto? Paga 3 miliardi di euro all'anno a Erdogan, grazie alla Merkel, assolutamente sì, per tenere bloccate le frontiere, sì. E questi 3 miliardi di euro vanno a finanziare il terrorismo internazionale. L'ha scritto nel libro, sì, l'ho scritto, me ne assumo la responsabilità, è così, cioè io ero proprio all'Accademia Diplomatica di Roma ed era presente l'allora, sto parlando di qualche anno fa, era già ex ministro degli esteri Franco Frattini, che poi è presidente dell'Accademia Diplomatica Italiana, e c'era ospite il ministro degli esteri della Turchia e praticamente faceva corte lo cercava di invitare ma quasi a livello ufficiale affinché la Turchia si decidesse di entrare nell'Unione Europea. Questa è la mentalità occidentale, no, che non si rende conto di Erdogan e di quello che la Turchia, della pericolosità che la Turchia rappresenta nel panorama internazionale, perché logicamente è un ponte, cioè il ponte di Istanbul sul Bosforo, è un ponte di civiltà, oltre che un ponte in cemento armato, ci capiamo. Attenzione, perché lui ha fatto un esempio che dovrebbe far riflettere. Lui nel libro ha parlato di quello che fecero gli occidentali col Terzo Reich e di quello che poi viene fatto oggi, è la stessa identica cosa. Il Terzo Reich gli viene data Biada, i Sudeti, poi dopo Monaco andava tutto bene, a Hitler venne praticamente dato di tutto. Perché? Perché nell'elite occidentale si diceva a quel tempo, vabbè, piuttosto dei comunisti è meglio foraggiare i nazisti, perché tutto sommato... L'errore poi venne capito coi campi di sterminio ormai avviati, eccetera, eccetera. Nel caso nostro, l'errore di aver detto che la Russia è un nemico, di averla sanzionata, anche se poi la Germania, la Francia e l'Italia considerano partner, come tu bene hai scritto, perché ripeto, quello che lui scrive è un po' un'illuminazione per chi si occupa di questi temi. Ripeto, sono solo al 20% della mia vita, ma per chi se ne occupa, perché non lo vedi scritto neanche l'IMES, che è una rivista che reputavo autorevole, ultimamente si sono persi in certe follie dicendo che noi abbiamo bisogno di Tizio Caio, sono tutte fesserie enormi, perché ripeto, questo genere di materia non è che non abbia uno studio scientifico dietro sulla geoeconomia e geopolitica che vadano poi a incrociare. E per mimarvi quello che sta facendo la NATO, io sono la NATO, lui la Russia, e noi abbiamo paura dei russi, però lì facciamo le NATO. È una manovra cosiddetta di accerchiamento. E uguale con la Cina, lo stesso. Perché con la Cina uguale, c'è un cordone sanitario. È un cordone sanitario che praticamente isola la Cina. E concludo due e inizio questo della Cina. Ho parlato di bomba atomica, armi elettromagnetiche che si sviluppano fino a qual è l'arma più potente in dotazione in questo momento alle superpotenze mondiali? È una domanda che faccio a voi. Sapete qual è? L'internet. Sì, è un'arma potente, ma non è proprio quella. È l'ambiente. L'ambiente è un'arma. Solamente tra il 20 e il 30% dei disastri naturali che guardate in televisione, telegiornali, che leggete sui giornali, sono naturali. Gli altri sono tutti provocati tramite le armi elettromagnetiche. Va bene? Collego questo discorso della bomba atomica, armi elettromagnetiche, con l'Ucraina. Tutti voi siete stati al corrente del famoso incidente di Chernobyl del 1986. Okay? Ho trattato anche di questa cosa, perché è un incidente, chiamiamolo così, della vecchia guerra fredda. Allora, io non mi interessavo indagare su Chernobyl, nel senso se effettivamente è stato un attacco americano, come è stato, e come ce ne sono stati altri in quella metà degli anni 80. Chernobyl è successo nel 1986. L'anno prima gli Stati Uniti avevano attaccato il più grosso gasdotto russo, sovietico ai tempi, facendolo esplodere, come altri gasdotti e oleodotti molto importanti. Voleva mettere l'Unione Sovietica in ginocchio dal lato proprio economico, come non fosse stata in crisi già abbastanza, perché gli Stati Uniti usavano il 5% del proprio prodotto interno lordo per finanziare i propri armamenti, e l'Unione Sovietica era il 25%. Dunque già quella è una bella differenza. La centrale di Chernobyl, secondo voi, era una centrale atomica, una centrale nucleare che forniva l'energia alla povera gente ucraina nei freddi inverni ucraini? No. No. Gli abitanti del nord dell'Ucraina, confine con la Bielorussia, per riscaldarsi d'inverno andavano nel bosco a tagliare le betulle. Lì nella foresta di Chernobyl c'era questa centrale che produceva l'energia per tutt'altra cosa, non per i poveri cittadini ucraini che vivevano in quei villaggi, no. Loro ne subivano le conseguenze. A una decina di chilometri di distanza nella stessa foresta esisteva un'arma elettromagnetica molto importante. Ce ne erano dislocate tre in tutta l'Unione Sovietica. Una era in Ucraina, una in Siberia e una nell'estremo oriente russo vicino a Vladivostok. Capite di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di armi elettromagnetiche che, come giustamente diceva il professore, lanciavano raggi laser, facevano intercettazioni interplanetarie, condizionavano la mente delle persone. Nulla di nuovo anche lì, perché erano tutte situazioni anche che venivano già applicate, quest'ultima per esempio già ai tempi del nazionalsocialismo. Era un'arma elettromagnetica a Chernobyl e la centrale ne forniva l'energia. Molto facile, tutto quello che io vi sto raccontando lo potete verificare se siete curiosi. Andate su Google, Duga, che in russo significa arco, Chernobyl, vi si apre un mondo. Verificatelo. Tuttora esistono i resti di questa arma nucleare nella foresta gialla di Chernobyl. Abbiamo parlato della Cina. La Cina attualmente è la leader dell'economia e del commercio mondiale attuale, ma di quello tradizionale, che non conta secondo le nuove regole del gioco, gli Stati Uniti avevano perso il potere economico, c'era un declino americano, cioè vedono e se ne leggono tanti libri sul declino americano, ce ne sono stati, e effettivamente il declino americano c'è stato, e però gli Stati Uniti sono riusciti a reagire al declino. Se dunque la vecchia guerra fredda si proponeva soprattutto dal lato politico-militare, quella attuale si propone sotto il lato politico-economico, soprattutto economico, soprattutto finanziario e soprattutto commerciale. Ecco dunque che se l'economia e il capitalismo e i mercati finanziari erano in mano alla Cina, gli Stati Uniti dovevano cambiare le regole del gioco. E così è stato, gli Stati Uniti hanno cambiato le regole del gioco. Ecco dunque che tutti quegli organismi internazionali di tutela finanziaria, di tutela commerciale, parlo del, per esempio del GATT, come di altri organismi internazionali che gestiscono tutte le transazioni finanziarie e commerciali mondiali, ufficialmente esistono ancora ovviamente, ma sono praticamente stati depotenziati e questi poteri sono stati inglobati all'interno di altri meccanismi. Meccanismi cosiddetti, io ho chiamato a cloud, a nuvole, ok? Sono cosiddetti trattati, parliamoli così, ma non sono trattati, non intercontinentali tra nazioni, dunque tra nazioni alleate, come la tradizionale Shanghai Cooperation tra Russia e Cina attuale, no. Sono trattati, tra virgolette, accordi, parliamo di accordi, transoceanici. Dunque, che cosa vuol dire questo? Che praticamente sono gli oceani che fanno, diciamo, il cosiddetto o cordon sanitaire o l'alleanza intercontinentale. Ci sono alleanze all'interno, diciamo, della zona atlantica e altre all'interno della zona pacifica, che è ancora quella più importante, perché è dove c'è la Cina. Questo famoso cordon sanitaire che parte dalle Filippine, che dunque alleato americano, che scende, passa per Seoul, scende ancora, arriva alla Nuova Zelanda, dunque ad Auckland, vecchio alleato statunitense, già dalla seconda guerra mondiale, per arrivare fino a Canberra, ok, dunque Australia, fa sì che venga applicato una delle nuove regole del gioco, in cui la Cina al momento è esclusa, soprattutto la Cina, ma anche la Russia di conseguenza. Fa sì che se vorranno continuare a tenere un margine comunque di importanza a livello economico, finanziario, a livello globale, Pechino dovrà adeguarsi alle regole del gioco dettate da Washington. Ecco dunque che gli Stati Uniti, da quel declino fine anni 90 e primi 10 anni degli anni 2000, si sono riabilitati e si sono rialzati. Io adesso il discorso che ha fatto il professore in quest'ultimo tratto è abbastanza complesso, perché noi abbiamo una mente che è stata una forma mentis che è stata creata durante determinati tipi di avvenimenti che ci sono stati anche nel corso del secolo e che storicamente vuole determinati tipi di ragionamenti. Quindi questo tipo di ragionamento qui è abbastanza complesso e complicato, anche perché se voi leggete, io vi prendo delle notizie che sono di macroeconomia, come ma gli Stati Uniti sono in declino perché, sapete, la Cina ha il debito statunitense, cioè Bank of China pare che non è esattamente così. E in realtà anche le cybermonete, le criptomonete, se voi avete notato chi va sui social fino all'anno scorso, c'erano una valanga di personaggi che sui social ti volevano vendere criptomonete, ti dicevano che con le criptomonete facevi soldi. In realtà queste criptomonete sono studiate dai grandi gruppi, dai grandi fondi di investimento, dalle assicurazioni che poi comprano titoli, vendono e fanno, e vengono poi rimesse sul mercato a determinate condizioni. Attenzione, perché i debiti pubblici dei paesi di un certo livello, pare che con questo gioco, infatti Bank of China li ha messe fuori legge, si siano praticamente ricomprati tutti i vari debiti che c'erano. E poi in realtà il debito pubblico è errato come viene spiegato, e io mi meraviglio che sia il Sole 24 Ore spesso a spiegarlo in quel modo. Non è il debito che si ha in latteria. Il debito pubblico è un pochino più complesso, e non è neanche vero che più è alto e più ci sono cose che non funzionano, per esempio, perché sennò il Giappone sarebbe fallito da mo', c'era più alto della Grecia, quindi mi pare che i giapponesi non stiano maluccio. Quindi anche su quello ci sarebbe da discutere delle ore e far capire alle persone normali che tutto sommato alcune cose andrebbero un attimo riviste. Quello che ha detto il professore è fondamentale, perché voi ogni tanto sul giornale vedete: ah, c'è il contratto transatlantico, ah, c'è quel trattato, ah, c'è quell'altro trattato. È proprio in funzione di questa nuova guerra ibrida tra più nazioni, tra più cordoni di nazioni. Per esempio in Europa noi non sappiamo neanche cosa sia l'ASEAN. In realtà l'ASEAN è una sorta di unione, chiamiamola unione, una specie di unione europea del centro asiatico, ci ho scritto un paio di articoli, perché in realtà potenzialmente è più grossa dell'Unione Europea, quindi stiamo parlando di entità che sono già di un certo livello. E poi bisogna differenziare molto spesso quei paesi che sono all'interno di questi cordoni e che producono materie prime, come i paesi africani, per esempio, che hanno sempre più importanza perché anche avete visto tutto quel discorso della Francia, quella favoletta che adesso hai le colonie e porti benessere, in realtà sfruttano per l'uranio. Io ripeto, per il clima bisogna sempre prestare la massima attenzione anche ai messaggi che arrivano, perché io mi sono anche un po' stancato, apro una parentesi, dei selfie che si fanno tanti che vivono al nord Europa sulle ciclabili, poi però si scaldano con le centrali nucleari, e l'uranio arriva dal Niger a basso costo, dove ci va dentro la gente senza nemmeno una tuta protettiva a 4 euro all'ora, e poi finisce lì o se ne scappa. Quindi voglio dire, dobbiamo un attimino come Europa cercare di aprire un attimo gli occhi e cercare di capire che Stati Uniti da una parte, Russia, Cina e compagnia bella dall'altra, con stati come la Turchia che sfruttano anche il nostro modo di porci, perché li stiamo pagando questi, prima o poi il conto arriva e sarà santissimo, e arriverà anche il conto per l'Italia e Libia. Il conto dell'Italia, che l'Italia pagherà in Libia, sarà salatissimo, e lo pagheranno i contribuenti italiani, poi quello poi vedremo come ce la racconteranno lì, ma sarà molto salato. Ed è per quello che i governi da Gentiloni in poi stanno andando coi piedi di piombo anche su quelle discussioni, perché lì gli americani ci dicono una cosa: noi siamo dentro un'alleanza atlantica e dovremmo cercare di fare determinate cose che non vogliamo fare. Quindi è un mondo che va più nella complessità che nella semplicità. Era più banale, paradossalmente, la guerra fredda standard: c'erano due blocchi, ti schieravi, c'era Tito che giocava un pochino a ping pong con l'Occidente, un po' con l'Oriente, e finiva lì. Adesso invece la situazione della Turchia: questi sono alleati e nemici di almeno tre entità. I terroristi islamici da una parte li foraggiano, però anche li bombardano. L'Unione Europea ci entra ma non ci entra. Coi russi si tirano giù i caccia a vicenda. Poi, capite, c'è questo aspetto. Sì. Esatto. Gli Stati Uniti in questo stanno insieme alla Russia, però a livello tecnologico, tu l'hai scritto, attenzione, perché i russi a livello anche aeronautico sono avanti. La Russia è in assoluto l'esercito tecnologicamente più avanzato in questo momento. Noi siamo fermi a tecnologie degli anni 70. Ma sì, ma come ferma la Francia, cioè non stiamo parlando. Dobbiamo renderci conto che il mondo va avanti e che l'Europa si è fermata. Ok, parliamo ancora e ci riempiamo la bocca che facciamo parte del G7, ma noi come Italia, ma anche la stessa Francia, Germania, Gran Bretagna, a livello globale sono veramente poco consistenti. E io vi voglio dire, nazioni come Kazakistan, nazioni come Azerbaigian, qui in Italia non si conoscono, Turkmenistan, qui in Italia non si conoscono nemmeno, non riescono nemmeno a pronunciare, ma che roba è? Ma che nazioni sono? Innanzitutto sono nazioni che hanno petrolio e gas nel sottosuolo, più dell'acqua, intanto. Fatevi un giro, devo andare a Baku tra un mesetto. E fatevi un giro a Baku, ad Astana, ad Almatà, in Kazakistan. Sono città megagalattiche, hanno la loro parte tradizionale perché sono logicamente di religione musulmana, e poi al tempo stesso hanno buttato su grattacieli, palazzi di una modernità stratosferica, e vivono di manodopera che proviene da paesi intorno. Dunque il mondo va avanti e siamo noi che siamo fermi, cioè l'Europa occidentale è in declino, noi siamo in declino. Ma io vedo il confronto già con la stessa Ucraina, quando io vado, ed è un paese in guerra, e non è un paese che è ricco di minerali, sì, nel Donbass, cioè, hanno avuto e hanno il carbone, ok, ma non hanno il petrolio, il gas che hanno questi paesi che vi sto dicendo. Capite di cosa stiamo parlando qua? Stiamo parlando che, cioè, se vuoi un'egemonia attuale, le nazioni praticamente devono avere un background di petrolio e gas. È per quello che quando io tengo le lezioni presso l'Università di Kiev e mi dicono, ma quando mai potrà essere che l'Ucraina potrà entrare nell'Unione Europea? Io dentro di me dico, ma spero mai, per l'Ucraina. Cioè, ma di cosa stiamo dicendo? Logicamente non lo posso dire, perché lì sono lì, logicamente c'è un grande contrasto tra pro-Europa e pro-Russia in Ucraina, c'è un grande contrasto, ci sono varie etnie, varie correnti di pensiero, c'è chi è favorevole e chi contrario, però il dato di fatto resta, cioè fossi io nel governo ucraino, ma cercherei di appianare tutte le situazioni con Mosca e ritornerei alleato di Mosca. La Russia è una vera potenza, ma perché? Perché detiene il 30% del petrolio e gas a livello mondiale. L'Ucraina è in ginocchio in questo momento, ma perché? Perché il petrolio e gas non arriva più a metà prezzo come era prima. Kiev ha la città di Kiev, e il costo della vita è come in Italia, come Bolzano, Trento, ma lo stipendio base di un poliziotto è 200 euro. Capite che cosa voglio dire? I pensionati praticamente ricevono nulla, soprattutto nella zona orientale. Dunque, ci sono situazioni veramente gravi che non vengono raccontate. Io qui, logicamente, ho voluto fare un affresco anche sulla situazione ucraina, vissuta di persona. Ma perché? Perché la guerra fredda e i dintorni siamo noi. Sono le strategie che ci vengono applicate e che ce le applicano sulla nostra pelle, i governi. Ma siamo noi che le stiamo vivendo. Ma chi le racconta queste? La storia siamo noi, non è che la storia la fanno i governi, sì certo la fanno i governi, ma la fanno anche le popolazioni, e soprattutto ne vanno di mezzo le popolazioni, capite? Dunque, chi parla di accerchiamento occidentale alla Russia? Pochissimi ne parlano di accerchiamento occidentale alla Russia, o perché non lo sanno, o perché non lo vogliono dire o raccontare. Sì, molti sottovalutano tutto questo, e soprattutto fa ogni tanto un po' specie leggere i discorsi che si fanno in seno all'Unione Europea, perché pare che noi parliamo da gli spartani avevano gli efori, stavano sulla collina, i due re spartani andavano a chiedere se possiamo andare in guerra o no, gli efori, che non sono come quelli del film 300, erano tutti vestiti bene, un po' scicchettosi, dicevano sì o no a seconda. E noi sembriamo un po' così, viviamo in questo tardo impero. Nella realtà dei fatti abbiamo la Russia che tutto sommato non avrebbe intenzioni ostili nei confronti dell'Europa. Io mi sono anche preso la briga di leggermi dei libri dei loro studiosi e devo essere sincero che non ho trovato nessun tipo di argomentazione ostile all'Occidente, anzi c'è una vaga, ma anche nei paesi che citavi tu, Kirghizistan, adesso la mia pronuncia, quella che è in Armenia, hanno anche un certo tipo di valore, cioè ci considerano anche delle persone da imitare. E noi invece abbiamo questa altezzosità di dire, beh, ma lì un attimino la situazione non funziona, siamo armi e bagagli attaccati al carrozzone americano che però si fa i fatti suoi ben che ben, e soprattutto noi non abbiamo nessun tipo di strategia, a mio avviso, poi correggimi se sbaglio, di nessun tipo, politica estera zero, strategia militare. Se il consorzietto che hanno fatto l'Aquisgrana fa ridere i polli, perché la tecnologia militare russa è già avanti a quella americana, cioè gli stealth, gli aerei stealth di quinta generazione, come famosi F-35, sono aerei stealth tattici multiruolo in gergo, sono dei cacciabombardieri di quinta generazione, i russi hanno quelli di sesta praticamente, e i cinesi tra un po' ce li avranno, quelli di sesta. Quindi, sì, ma sono avanti ancora di più, nel senso che parlando mai loro hanno del potenziale militare che viaggia con le particelle in aria, ci sono delle intercettazioni aeree che non te ne accorgi nemmeno, e ci stanno arrivando anche gli americani in questo momento, esatto. Spaziali in questo momento partono tutti dalla Russia, esatto, cioè la Russia è in assoluto più avanzata. E l'Unione Europea? Io qui ho fatto un capitolo dedicato anche all'eventuale possibilità di avere un esercito europeo. Ma quando mai? Ma quando mai ci potrà essere un esercito europeo? Ma quando mai? E l'Unione Europea non è stata capace di fare quel passo ulteriore al di là dei famosi tre pilastri. Ok? Si è mantenuta quello economico, che poi è andato in declino anch'esso, ma quello della sicurezza e della difesa e della giustizia non è stato portato avanti. Non esiste, e da come la vedo io, non esisterà mai una forza di intervento militare vera e propria. Sì, ok, ci sono quegli interventi militari di peacekeeping, ma è nulla a confronto del potenziale che esiste a livello globale. Ok? Dunque, per questo, dal lato economico andrà sempre più in declino l'Europa occidentale e l'Unione Europea, e dal lato politico-militare ancora di più. E un'altra tematica che mi sembra che avevamo anche selezionato da raccontare anche al pubblico è sempre all'interno di queste grandi strategie globali da parte delle grandi potenze, e dunque all'interno della cosiddetta guerra ibrida, ci sono campi di applicazione sociale molto importanti, in cui le grandi potenze puntano ed investono. Una di queste è lo sport. Ah sì, questo è un capitolo importante. È un capitolo importante, io sono anche docente alla scuola dello sport del CONI, e scrivo articoli a livello nazionale e internazionale appunto riguardo le tematiche e i conflitti politici all'interno appunto dell'ambito sportivo. La guerra fredda mi è imbevuta in tutta la sua storia, sia quella passata che quella attuale, di connessioni con il mondo sportivo, nazionale e internazionale. I giochi olimpici moderni hanno vissuto tantissimi episodi in cui la politica internazionale ha influito strettamente, e il contrario, lo sport internazionale ha influito sulla politica internazionale. C'è una interconnessione tra i due mondi. Qui ho fatto uno spaccato sia sul libro Guerra Fredda e Dintorni che su un altro libro che avevo scritto anni fa, Dedeer, che cosa rimane? Che lo presenterò qua. Se lo presenterà il 15 di aprile, lo presenteremo il 15 insieme. Di aprile, quindi lo presenteremo sempre qui. Questo sarà interessante perché va, se apro un attimo una piccola parentesi, va proprio a focalizzare Deder, che cosa rimane. Interessante anche per la nostra area di Bolzano questo tipo di ragionamento, ed è interessante perché personalmente nella vecchia Germania dell'Est ci andai da studente nel 96 con i viaggi della provincia. Effettivamente a Dresda ancora non era arrivato l'Occidente al 100%, perché erano passati pochi anni dalla caduta del muro, e effettivamente si notava una grandissima differenza anche mentale, culturale, rispetto alla Germania dell'Ovest, dove invece ero stato più volte anche da confinante, diciamo, tra Austria e Germania. Quindi è questo libro anche molto interessante, e il discorso dello sport è quasi fondamentale. Logicamente ci sono tanti capitoli, qui logicamente in un'ora e mezza non possiamo parlare di un libro diciamo anche voluminoso, ma molto interessante. E dunque sono stati scelti alcuni argomenti, ma quando si parla dell'ex DDR e si parla di quegli atleti che voi conoscete, che poi io ne parlavo anche con Marco quando ci eravamo incontrati, io da ragazzino conoscevo l'inno tedesco orientale più di quello italiano, perché ero appassionato, seguivo le gare internazionali, campionati europei, campionati mondiali, le olimpiadi di nuoto, atletica leggera, logicamente erano dominanti. Ecco dunque che c'era una volontà da parte di quella nazione, su dettami logicamente che provenivano da piani ancora superiori, dunque dal Cremlino, di far sì che lo sport venisse usato come strumento di politica internazionale, strumento di egemonia, strumento di propaganda, a sacrificio di chi? Dei giovani atleti. Ho raccontato delle storie, soprattutto lì ho raccontato delle storie molto, molto interessanti. Ecco. Io penso che abbiamo concluso, sì. Possiamo. Perché Trump vuole uscire dalla NATO, o è già uscito, non lo so. E la questione via della seta, per quanto riguarda l'Italia. Sì. E allora, ne ho già accennato, per quanto riguarda Trump e NATO, e ne ho trattato nel libro. E la NATO ormai è un carrozzone che però agli Stati Uniti conviene ancora tenere, diciamo, come un, quasi possiamo dire, un involucro vuoto, di facciata. E gli Stati Uniti logicamente si sono già sganciati dalla NATO. Pagano ancora? Sì, ma certo, ma ufficialmente fanno ancora parte della NATO, ovviamente, però sganciati si sono sganciati, nel senso che a loro conviene tessere la loro tela dal lato della politica internazionale, politico-militare internazionale e politica economica-finanziaria internazionale per conto loro. Okay? Dunque, come era nella vecchia guerra fredda, gli Stati Uniti guardano oltre noi, guardano più a est, guardano al Pacifico. Lo guardavano già ai tempi della guerra del Vietnam, e quando ne ho parlato anche nel libro, anche un capitolo molto bello, molto interessante, sulla Ostpolitik di Willy Brandt. Era importante per l'Europa, era importante per noi, e per gli Stati Uniti era sempre stata una seconda scelta la Ostpolitik, e anzi era erano dei sassolini sulla scarpa americana e le politiche di Willy Brandt. Ma perché? Perché creavano destabilizzazione in un contesto europeo che non era primario per gli Stati Uniti. E la via della seta, logicamente, è assolutamente sì, importante. Logicamente, quando vengono fatti i convegni in Russia, in cui partecipo, o in Ucraina, logicamente le varie vie di oleodotti, gasdotti che provengono dall'est sono trattate in maniera molto analitica e molto importante. E logicamente rimangono scioccate a livello accademico, perché io mi ricordo 2 anni fa stavo tenendo una conferenza in una università di Kiev e 2 giorni prima il nostro ministro Gentiloni si era recato a Sochi in Russia a firmare dei trattati bilaterali Italia-Russia per quanto riguarda il discorso dell'approvvigionamento appunto di gas e petrolio. Logicamente era tutto collegato anche col discorso tedesco, dunque le varie vie, quelle caucasiche, quelle più a nord e niente, praticamente non erano a conoscenza gli studiosi accademici ucraini di questo incontro bilaterale, o comunque ne avevano sentito così, ma non e lì erano rimasti scioccati, perché allora ai tempi loro erano convinti che l'Europa occidentale, l'Italia in particolare, avesse tagliato completamente i ponti con la Russia, cosa che logicamente, non so se tra ingenuità o meno, logicamente non c'è stata. L'Italia ha proseguito, e per quanto mi riguarda giustamente, nelle sue politiche, magari anche al di fuori di quelle che erano di facciata da parte dell'Unione Europea, cioè di concludere contratti e accordi internazionali economici e di fornitura con Mosca riguardo appunto queste pipeline, ok? Dunque, assolutamente. Sulla via della seta, se posso aggiungere. Sì. Dobbiamo un po' giocare da ponte come fa la Turchia in pratica, sì. Cioè, dobbiamo stare attenti ai rapporti con gli Stati Uniti e dobbiamo però cercare di entrare in scia di alcune cose che potrebbero tornarci tra virgolette utili con i cinesi, il che non vuol dire, come ho sentito dire, ristrutturare lo scalo di un falcone, vuol dire cercare di spostare il commercio che arriva da Oriente nei nostri porti piuttosto che a quello di Amsterdam, che forse far tutto il giro diventa più complesso. Quindi, però, stando attenti a quello che potrebbe dar fastidio oltreoceano, perché ripeto, non è un gioco, è uno scherzo se gli americani di punto in bianco. E di recente ho intervistato Lutwak, che è andato giù durissimo dicendo che se ci permettiamo di farlo loro ci tagliano viveri e monti, ma non credo che anche che vada come dice Lutwak, però negli Stati Uniti, che ci siano democratici o non democratici, ci guarderanno con la lettera in ingrandimento, perché se non andiamo in tempesta finanziaria è anche perché gli Stati Uniti garantiscono per noi in più di un'occasione sui famosi rating, se avete notato sia Fitch, stanno molto buoni, perché il presidente americano ha detto calma, l'Italia la lasciate stare, nel senso che comunque l'alleato noi ce lo abbiamo e funziona, bisogna stare attenti però a non giocare troppo. Caso Huawei è un caso che, se a mio avviso, è meglio che si gestiscano americani, noi è meglio che in quelle cose non ci entriamo, se tu sei d'accordo, sì, certo. Questo, perché entrare dentro in una diatriba tra la figlia del cinese che è pieno di soldi, che però è contro la che porta tecnologia, con questo cellulare non entri in una base NATO perché è considerato tecnologia spy, quindi non ci entri, quindi quelli sono affari tra Russia e Cina, e noi dovremmo imparare anche ogni tanto a farci il pentolino, che tanto ne abbiamo tantissime di cose da risolvere. Quindi quando anche vedo le aperture dei nostri giornali sul caso Huawei, un po' mi viene da ridere, perché noi dovremmo proprio spiegare che cosa significa entrare dentro nella via della seta. E questo è uno dei nostri problemi anche, o estremamente provinciali o estremamente globali, non c'è la via di mezzo. Poi, quei problemi che abbiamo in Libia, parlare di questa filosofia tra grandi marchi fa un po' ridere. Noi abbiamo commesse in Cina che ci danno soldi, ma non, su una cosa che ragiona Lutwak, i cinesi non sono sentimentali, non è che entri nella via della seta e quelli ti comprano tutti i prodotti, eh? Quelli fanno concorrenza anche ai nostri prodotti, dobbiamo essere consapevoli che se non ci gestiamo i nostri prodotti, loro comunque fanno loro, pur che ci ammirano, ci apprezzano, ci considerano una potenza anche se noi non siamo proprio annoverati come la Germania, però ci, per una questione storica che parte ancora dall'impero romano, l'impero celeste, eh? Cioè, molti credono che queste siano sciocchezze, ma la mentalità cinese è così, è una mentalità fortemente radicata al prestigio ed è per quello che non è una potenza intesa come superpotenza americana o russa, ma anche i russi ci, noi come Italia ci considerano di un certo livello, attenzione, no, ma io vedo a quando, giocarcela bene, eh. Io quando frequento gli ambienti accademici, cioè l'Italia, no, l'Italia è molto considerata dal lato politico e dal lato economico, dunque anche per quanto riguarda gli scambi, e qui gli scambi economici, gli scambi commerciali, e questo l'Italia deve comprendere che è importante sfruttare questa situazione. Sì. Certo, e soprattutto che gli Stati Uniti, e mi ricollego appunto alla domanda che avevo iniziato a rispondere, effettivamente molto intelligente, con il quale appunto gli Stati Uniti si stanno smarcando dal lato politico-militare, lasciando più mano libera, però dal lato economico e commerciale, come diceva giustamente il professore, logicamente hanno un occhio più vigile, ma questo non significa che l'Italia non possa concludere accordi importanti e contratti importanti, ma soprattutto anche con queste nazioni tipo Kazakistan e Azerbaijan che ho parlato prima, lo stanno iniziando a fare per fortuna, perché il futuro è lì. Il futuro è lì. Dunque, se ci sono magari apparentemente dei veti, diciamo tra virgolette, a livello internazionale, che poi non sono veri e propri, però sempre con quel discorso della lente di ingrandimento, di quella partnership globale con Mosca, appunto nella situazione di politica internazionale globale attuale, ecco che comunque ci sono dei paesi molto importanti con i quali l'Italia ha l'opportunità di poter commercializzare e di poter intrattenere rapporti commerciali importanti. Sì. Bene, noi ringraziamo allora il professor Alberti e il professor Marco Pugliese per averci dato questa opportunità di riflettere su argomenti non così conosciuti. Vi ringrazio per la vostra attenzione, se avete piacere di risentirlo in aprile sarà di nuovo qui e presenterà, ci parlerà del precedente. Esatto. Sì, parleremo magari di guerra fredda passata, sempre interessante, che comunque ha dato spunto alla guerra fredda attuale. Bene, vi aspettiamo quindi anche per i prossimi appuntamenti della settimana. Grazie a tutti.